Questo mi disse un uomo esperto nella scienza degli sguardi. Asceta, ipocrita. Per anni il mio quaderno l'aveva in pugno il vino rosso. Lo splendore della casa del vino dipendeva dalle mie lezioni di poesia a tutti i rovinati, ai disfatti dal vino. Lavavo nel vino il quaderno del nostro sapere, sì che ho visto gli astri irati contro la mia sapienza. Uno splendido motivo eseguiva il cantore delle pene d'amore, tanto che ai saggi del mondo colava sangue dalle ciglia. O cuore, se sei un esperto di bellezza, chiedi l'ineffabile agli idoli. Che questo mi disse un uomo esperto nella scienza degli sguardi. C'è un ragazzo turco, uno di Shiraz, che mi fa perdere la testa. Se mi dicesse di sì, se mi volesse, darei via Samarcanda. Se mi prendesse in mano il cuore, se mi prendesse per quel neo indiano che ha sul viso, darei via Bukhara. Dammi il vino, dammene finché ne resta, perché nel mio paradiso di Shiraz non scorre l'acqua, non fioriscono i prati. C'è un ragazzo turco, uno di Shiraz, che mi fa perdere la testa. Se mi dicesse di sì, se mi volesse, darei via Samarcanda. Se mi prendesse in mano il cuore, se mi prendesse per quel neo indiano che ha sul viso, darei via Bukhara. Vanno in giro a eccitare questi ragazzi, questi zingari maliziosi. I loro modi, i loro canti, dolci e sediziosi, mi levano la pazienza. Mi scompigliano il cuore come saccheggiano i negozi. Che gli importa al ragazzo del mio amore imperfetto? Alla sua bellezza imperfetta posso aggiungere solo un ritocco. Un'ombreggiatura sul labbro. Non ne ha bisogno il suo viso. Di quella peluria adolescenziale sul labbro meno nera di quel suo neo indiano micidiale non ne ha bisogno. Questa bellezza di peluria che gli cresce sul viso ogni giorno è il segreto del mondo, è l'enigma che nessuna sapienza scioglie. Sulle tue labbra di dolce rubino risplende la goccia amara di una risposta negativa. Se mi insulti, se mi maledici, io ti lodo. Ascolta, amore, le parole di un vecchio menestrello avvinazzato. Nessuna sapienza scioglierà l'enigma della tua bellezza. Questa bellezza di peluria che gli cresce sul viso ogni giorno è il segreto del mondo, è l'enigma che nessuna sapienza scioglie. Canti bene, Hafez, infili parole come perline quando pronunci i versi. Rallegrati dunque di come, di quanto canti i tuoi versi come perline. Di vetro infilate risplendono come le Pleiadi. Ti sei tolto il velo, sei scappato di casa ubriaco, perché? Hai dato i tuoi riccioli al vento di ogni rivale, l'hai fatto con tutti, perché? Mi avevi affidato le punte dei tuoi riccioli, ma poi mi hai sbattuto per terra, perché? Mi hai svelato il segreto della tua bocca e il mistero alla cintola, ma poi, Dalla cintola hai sguainato la spada contro di me, perché? Hai giocato a dadi con l'amore di tanti e barato con tutti. Perché? Il poeta che abita il tuo cuore così soffocante non è riuscito a scacciare gli intrusi. Perché? Canti bene, Hafez. Infili parole come perline quando pronunci i versi. Rallegrati dunque di come, di quanto canti i tuoi versi come perline. Di vetro infilate risplendono come le Pleiadi. Ti sei tolto il velo, sei scappato di casa ubriaco, perché? Dall'arco del tuo sopracciglio scoccò uno sguardo maligno per spargere il mio sangue. Io piangevo impotente. Ubriaco e sudato sei venuto nel parco. L'acqua sul tuo viso diede fuoco all'albero di Giuda. Ogni sguardo vanesio dei tuoi occhi narcisi solleva 100 tumulti nel mio mondo. Per la vergogna che lo paragonavo al tuo viso, il gelsomino chiese aiuto alla brezza che gli coprisse la bocca di terra. Dall'arco del tuo sopracciglio scoccò uno sguardo maligno per spargere il mio sangue. Io piangevo impotente. La viola annodava la sua ciocca attorcigliata. Era la brezza che raccontava la storia dei tuoi ricci. Prima d'ora ero un ascetico pio senza vino. Sono diventato il menestrello dei ragazzi belli. Dall'arco del tuo sopracciglio scoccò uno sguardo maligno per spargere il mio sangue. Io piangevo impotente. Il vino dei ragazzi, dono eterno della sorte. In questa sfattezza, Hafez si concede sollievo. Mi apro al sollievo in questa disfatta. Il sollievo di questo poeta è nella disfattezza. Così il mondo adesso si piega ai miei desideri. Ora il mondo soddisfa i miei desideri. Dall'arco del tuo sopracciglio scoccò uno sguardo maligno per spargere il mio sangue. Io piangevo impotente. Mi apro al sollievo in questa disfatta. Il sollievo di questo poeta è nella disfattezza. Così il mondo adesso si piega ai miei desideri. Ora il mondo soddisfa i miei desideri. Lo stupore mi ha bruciato la mente. La lingua sta ferma, ma la bocca si riempie di poesia.